suona due ore. Si muove un cammino. Buongiorno a tutti. Sono Gigi D'Agostino. Buongiorno a tutti. Gigi D'Agostino. Tutti, tutti. Gigi D'Agostino. I can't go. I can't go. I can't go. I can't go. I can't go.

e io sono Gigi D'Agostino, musicista Tanzerini. E chi si è sintonizzato adesso è bene che sappia. Il cammino di Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. sono Blackjack DJ del forum gigidagostino.com. Volevo dedicare troppo alle persone della family per esprimere tutto quello che provo per loro. Mille emozioni. D'Agostino. Una buona occasione per diventare tamarri. Gigi, mi sento un po' spento. Mi sento un po' spento. Mi suoni cammino contento? Certo. Dome 82. Muovete. Mi puoi mettere la tua canzone Welfare? I wanna dance. Perché vorrei dedicarla a una mia amica da Valdango, provincia di Vicenza. Grazie. Tipo 88. Tipo? Si chiama così. Bye. spazio si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. La scienza del vissuto degli uomini non è una scienza esatta, bensì un'esperienza legata alla contingenza e un processo che evolve ininterrottamente. Alla contingenza. De che cazzo habla? Alla contingenza è un processo che evolve ininterrottamente. Ho comprato una tartaruga, l'ho chiamata Gigi perché è lenta, violenta, proprio come il tuo cammino. Nico e Dani da Genova. Officina emotiva, questo sabato 21 aprile 2007. Officina emotiva. Con Gigi D'Agostino in concerto mentale nella sala sperimentale. Presso la discoteca Big Band Disco, Golmes, Spagna. Il cammino di Gigi D'Agostino. Benvenuti nel mondo che non c'è. Dicono che la tua musica è da Tamarri. E allora viva i Tamarri, visto che a me piace. Pino il Foggiano, da Bergamo.

Quando ascoltiamo l'adagio, ci scende la lacrimuccia. Gigi, potresti dedicarcela? Grazie per le emozioni che ci hai regalato in questi anni. Elisa e Irene. Gioia non si può descrivere. Luca, vorrei dedicare Paura e nobiltà a tutta l'aristocrazia di Monte Corvino Rovella, perché sono dei prepotenti. Grazie, dottore. Basta niente per creare un prepotente. Tanti soldi e successo tra la gente. E la paura di non possedere più niente. Questo basta a infettare la sua mente.

Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Ascoltare One and One. La dedico a voi e alla mia piccola Valeria ammalata. Lilù. sentiamo domani. Grazie.